Lunedì 1 aprile 2013 si aprirà nella provincia di Siena la caccia alla volpe in tana, una pratica molto barbara, significa che i cacciatori andranno con i cani a cacciare le volpi dentro le loro tane. Le volpi sono in questo momento nel pieno dell'allattamento dei loro cuccioli, quindi è un momento particolarmente delicato. Il progetto è di abbattere 700 volpi circa, naturalmente i controlli sono quelli che sono, per cui il numero probabilmente sarà superiore rispetto a questo. E noi, preoccupati per questa situazione, abbiamo lanciato un appello, abbiamo scritto una lettera e l'abbiamo fatta girare tra una serie di personaggi che abbiamo pensato potessero portare così almeno una legittimazione culturale all'opposizione rispetto a questo massacro. Forse è il caso anche di fare qualche nome per dare un'idea dello spessore anche dell'adesione che ha suscitato questa vicenda, che davvero evoca gli spettri più bui della sopraffazione delle specie animali da parte dell'uomo. La caccia alla volpe è proprio un archetipo del sadismo. I primi firmatari di questo appello sono 25, vi citiamo qualche nome. Una è l'astrofisica Marguerite Hack, c'è Anna Maria Rivera, antropologa che conoscono bene gli ascoltatori di Restiamo Animali perché ha una rubrica, La Bella, la Bestia e l'Umano. Ancora ovviamente il nostro filosofo di riferimento, Luigi Lombardi Vallauri, ma poi c'è Gianni Tamino, biologo. C'è Valerio Pocar, sociologo che si è molto dedicato ai diritti animali e che è oggi il garante dei diritti animali del Comune di Milano. C'è Red Canzian, il cantante dei Pooh, vegan. C'è Paola Maugeri, conduttrice TV, anche lei vegan e molto attenta alle questioni ambientali e animaliste. C'è l'attrice Daniela Poggi. C'è Anna Maria Manzoni, la psicologa che più volte abbiamo incontrato e intervistato. C'è Luciana Baroni, dell'Associazione di Medicina Vegetariana. C'è Stefano Cagno, medico e attivista nel campo della lotta contro la vivisezione. La scrittrice Susanna Tamaro, che spesso si è occupata della condizione animale. C'è Marco Verdone, il veterinario dell'isola di Gorgona. C'è Andrea Zanoni, l'eurodeputato che si occupa tantissimo di diritti animali e così via. L'elenco è sul nostro sito, sul nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Questa iniziativa della provincia di Siena assomiglia moltissimo ad un favore fatto alle associazioni dei cacciatori, che si vedono in sostanza riaprire la caccia proprio alla fine della stagione venatoria. La tesi che viene espressa dalla provincia di Siena per autorizzare la soppressione di centinaia di volpi è quella di un loro sovrannumero. Un concetto molto discutibile nell'ambito degli addetti ai lavori, perché da un lato è molto difficile censire le volpi presenti in un determinato territorio, dall'altro le volpi tendono a stabilire, come tutti gli altri animali selvatici, un rapporto di naturale equilibrio con l'ambiente in cui vivono in funzione della disponibilità di cibo e delle altre vite che frequentano quel territorio. E in ogni caso, se e dove fosse documentato uno squilibrio, una qualche necessità di intervento, e spesso ci dicono gli esperti lo squilibrio è determinato proprio dai cacciatori, dalla pratica della caccia, dall'introduzione di specie cacciabili che turbano in qualche modo il normale procedere di un ecosistema. Ecco, ma se anche si fosse accertato con metodo scientifico e condiviso la necessità di intervenire, sicuramente ci sarebbe la strada anche per farlo in maniera non cruenta. Ed è questa anche la proposta che viene dalla redazione di Restiamo Animali e dagli altri sottoscrittori del nostro appello. A questo punto mancano pochissimi giorni alla scadenza fissata dalla provincia di Siena, ma non lasceremo nulla di intentato e perciò sabato 30 marzo saremo a Siena, in Piazza del Duomo numero 9. Per il presidio, che è organizzato da GAT, Gruppo Antispecista Toscano, LAC, Lega Abolizione Caccia, e CABS, Comitate Against Bird Slaughter, a sabato 30. Ci vediamo a Siena. There's no limit. scorso, il 26 marzo, è stata finalmente votata e approvata in Emilia-Romagna una legge che vieta l'uso della catena per i cani, con però alcune deroghe previste. In rete abbiamo letto pareri discordanti e controversi sulla questione. Alcuni esultano, altri sono delusi. Sentiamo cosa ne pensa Davide Battistini, l'attivista per i diritti degli animali che ha portato avanti uno sciopero della fame per 45 giorni proprio per ottenere una legge regionale che vietasse di tenere i cani legati alle catene in Emilia-Romagna. È un successo di tutti quelli che hanno aderito a questa valanga di civiltà. C'è stato un tentativo di negare completamente le promesse fatte alle 12.000 persone che hanno firmato la petizione da parte della politica. C'è stata una reazione sui network da parte delle associazioni animaliste. I politici hanno fatto retromarcia completamente, per cui sono dovuti tornare sui loro passi e approvare all'unanimità la legge che vieta per la prima volta in Italia e credo anche in Europa le catene ai cani. Questo era solo un estratto. Nella trasmissione di domenica 31 marzo di Restiamo Animali andrà in onda la versione completa dell'intervista a Davide Battistini. Ah, no.